don't know what I was waiting for. And my time was running wild, a million dead end streets, and every time I thought I. Monica Cirinnà, neosenatrice, è fra le poche, forse l'unica parlamentare che alla vigilia di Pasqua ha denunciato la strage di Agnelli imminente in occasione di questa ricorrenza religiosa ed è soprattutto promotrice di un progetto di legge per la tutela, la diffusione del diritto, possiamo parlare di diritto, all'alimentazione vegetariana e vegana nelle mense pubbliche. E senatrice Cirinnà, qual è lo spirito e il senso di questa sua proposta? Lo spirito è certamente quello di una persona che ha sempre combattuto per i diritti, quindi sicuramente i diritti degli animali, sicuramente i diritti di tutte le persone in difficoltà, ma soprattutto i diritti di chi non ha voce per poterli esigere, e quindi gli animali stessi che attraverso di noi, vegetariani e vegani, hanno una chance di vita in più. Sono stata delegata dei sindaci di centrosinistra del Comune di Roma per oltre 14 anni e ogni anno facevamo l'appello come amministrazione comunale a che si potesse festeggiare la Pasqua facendo pace con gli animali, e quindi con dei meravigliosi menù a base di carciofi, a base di asparagi, a base di uova, di tutto ciò che comunque non è cruento nei confronti degli animali. Credo che sia un diritto da considerare in tutti quei luoghi pubblici dove ci può essere un lavoratore, uno studente, un dipendente che sia vegetariano e che possa trovare nella sua mensa, del suo istituto, della sua scuola, della sua università, un'opzione che rispetti la sua scelta alimentare, che è anche una scelta di diritti per tutti gli altri esseri viventi. Quindi in questo disegno di legge si chiede che in ogni mensa pubblica ci sia un'opzione rispettata, vegetariana o vegana, cioè senza neanche derivati. Nel mio progetto di legge c'è tutto un versante di formazione e di educazione che non è solo rivolta al consumatore finale, quindi, ma anche a coloro che sono, diciamo, dall'altra parte del bancone, quindi un'opzione vegetariana nelle scuole alberghiere, un'opzione vegetariana e vegana in tutti quegli insegnamenti che portano poi un singolo a diventare un grande chef, per esempio. Quindi anche la ristorazione nella parte di formazione si deve adeguare a poter garantire questa scelta. Diffido di chi diventa vegetariano o vegano per motivi di salute e non per amore degli animali, ma comunque un'opzione vegetariana in un paese di obesi, in un paese di colesterolo altissimo, in un paese di uricemia altissima, in un paese di cittadini diabetici, è comunque una scelta di sana alimentazione. Chiaramente ognuno la fa per il suo aspetto. L'aspetto etico e morale dei diritti degli animali è certamente quello che io privilegio, ma anche una scelta salutista può aiutare la nostra rivoluzione culturale a diventare più cruelty free in un certo senso. Senatrice Cirinnà, la legislatura è appena cominciata, quindi forse è ancora presto per fare una valutazione di questo genere, però ecco, la sua sensazione sull'animalismo in Parlamento e sulla prospettiva di poter introdurre norme di tutela dei diritti animali in questa legislatura quali sono? Ma io, dopo 19 anni di Consiglio Comunale di Roma, ho grandi speranze, perché ovviamente da assessora ai diritti degli animali e da singola consigliera comunale ho sempre fatto richieste al Parlamento, non solo richieste di interrogazioni, agli amici del mio partito, il Partito Democratico, richieste di disegni di legge. Adesso ci sono e so che facendo un po' di rete, magari anche trasversale, come la goccia che buca la montagna, qualche risultato lo possiamo ottenere. Non ci dimentichiamo che siamo ancora freschi della grande vittoria sul canile di Green Hill, sui cuccioli uccisi e deportati appunto per la sperimentazione degli animali. Io ne ho una di Beagle di Green Hill, quindi mi sento coinvolta in prima persona su questo tema, ma su tanti altri. Nel Partito Democratico io ho trovato alcuni senatori sensibili, che sono quelli per esempio che hanno stigmatizzato con me l'argomento che voi conoscete della caccia delle volpi in tana a Siena. Si può fare della trasversalità e forse così si può ottenere un risultato. Tutto sommato i cani, i gatti, gli altri animali non votano, possono trovare in noi una voce. Se questa voce siede nel centro, nella destra, nella sinistra, perché no, nel Movimento 5 Stelle, tutti insieme possiamo fare qualcosa di buono per loro, che tutto sommato fanno per noi molto di più di quello che noi ci meritiamo. La senatrice Monica Cirinnà, come lei stessa ha detto nel corso dell'intervista, è la promotrice di una lettera inviata alla giunta provinciale di Siena da un gruppo di senatori del Partito Democratico affinché la stessa giunta rinunci al suo progetto di apertura alla caccia alla volpe in tana, che era stato deciso per il 1° aprile scorso, poi come ben sanno i nostri ascoltatori, una campagna, una mobilitazione molto vasta aveva indotto la Giunta a rinviare, a congelare per un mese questo provvedimento. Ora i senatori del PD, Monica Scirinnà, Rosa Maria Di Giorgi, Silvana Amati, Claudio Martini, Vannino Chiti, due quindi ex presidenti della Regione Toscana, Manuela Granaiola, Riccardo Nencini, del Partito Socialista, fino a poco tempo fa assessore regionale in Toscana, e poi Roberto Kocancic, Anna Maria Parente, Francesca Puglisi, Paolo Guerrieri, Luigi Manconi hanno sottoscritto questo documento nel quale si legge testualmente: la caccia alla volpe in tana rappresenta una crudeltà che non ha fondatezza dal punto di vista scientifico e non tutela l'ambiente. I senatori chiedono quindi alla giunta provinciale di non reiterare i provvedimenti autorizzativi, mettendo a punto invece sistemi ecologici e incruenti di controllo delle popolazioni di animali selvatici, con censimenti effettuati da organismi scientifici indipendenti e terzi. Si tratta, come si vede, di una presa di posizione piuttosto chiara che a questo punto crediamo dovrà indurre la provincia di Siena a rinunciare una volta per tutte al suo progetto e a non limitarsi a un congelamento fino al 1° maggio.